ritagli, presentazioni e prefazioni di quegli oscuri oggetti chiamati libri. Per ritagli questa settimana presentiamo un testo edito da Sicilia.el Edizioni, seconda edizione, nell'ultima ristampa del giugno 2002. Il libro si intitola Dietro ogni scemo c'è un villaggio, scritto da Giuseppe Bucalo, Itinerari per fare a meno della psichiatria, seconda edizione appunto. La prefazione di Giorgio Antonucci. Questo è un libro irragionevole, non dà risposte alle ragionevoli preoccupazioni su come fare per curare, controllare o normalizzare le persone che vedono cose che noi non vediamo, ascoltano voci che noi non udiamo, vivono il loro tempo o il loro corpo in un modo che non conosciamo. Paradossalmente, non c'è niente di più irragionevole che continuare a definire queste esperienze umane come sintomi di malattia, tentando di curare persone che andrebbero ascoltate, comprese, accettate in quello che sono ed esprimono. La stragrande maggioranza dei sintomi psichiatrici, così come dei problemi interpersonali che abbiamo con chi definiamo malato di mente, derivano da questo ossessivo, inumano, violento sforzo nel tentare di negare, distruggere, modificare i modi di sentire, essere e capire che non comprendiamo o non condividiamo. Tutto ciò che viene arbitrariamente attribuito ad una malattia mentale in realtà ha a che fare con la relazione di paura che esauriamo nei confronti di certe esperienze e di chi le vive. Gli psichiatri chiamano autistico il comportamento di chi non vuole comunicare con loro. Definiscono paranoico chi afferma di essere loro prigioniero e vittima. Considerano non cosciente chi non accetta le loro pratiche e le loro terapie. In altre parole, è malato di mente chi non è d'accordo con quanto lo psichiatra che gli sta di fronte pensa della realtà e di se stesso. La prima istruzione per usare questo libro e non farsi abusare dalla psichiatria è accettare e praticare l'idea che le esperienze e i modi di sentire degli esseri umani non sono malattie e che, dall'altro canto, le pratiche che intendono curare tali esperienze non sono pratiche mediche. Quando affermiamo che la malattia mentale non esiste, diciamo essenzialmente che alla base dei nostri comportamenti, delle nostre esperienze interiori più profonde, delle nostre relazioni con gli altri, ci sta sempre, e in ogni caso, la nostra sensibilità, la nostra storia, le nostre scelte, e non un processo patologico o un'alterazione delle nostre funzioni cerebrali. L'obiezione che ci si muove è che negare la malattia mentale equivale a negare la sofferenza psichica. Obiezione ragionevole, ma dimentica del fatto elementare che non tutto ciò che fa soffrire è una malattia. Se così fosse, anche innamorarsi dovrebbe essere considerata una malattia mentale e delle più gravi, così come avere una fede politica, progettare per il futuro, amare la natura, avere una mente. Ogni persona, ogni relazione o evento della nostra esistenza può farci soffrire o al contrario portarci in paradiso. E poi, se si trattasse di sofferenza, è tollerabile che altri definiscano contro il nostro volere se, quando o quanto noi stiamo soffrendo? Secondo quale criterio Mimmo non soffriva quando studiava ingegneria a Torino, solo ed incompreso, e soffre ora che se ne sta sotto la pioggia nella piazza del paese? Soffriva San Francesco mentre si liberava dai suoi vestiti di tutti i beni terreni? Soffriva mentre sfilava nudo? Soffrivano certo coloro che gli stavano intorno e che non condividevano le sue scelte, ma lui soffriva e di che? La seconda istruzione d'uso di questo libro sta nella rinuncia a cercare qualsiasi alternativa alla psichiatria. E arriviamo alla terza istruzione per usare questo libro. Tenere fermo che la scelta non è fra una psichiatria e antipsichiatria, tra terapie dolci e terapie da shock, tra psicofarmaci e psicoterapie. La scelta è tra la negazione e l'accettazione che questo è solo uno dei mondi possibili che il nostro è solo uno dei modi possibili di vivere, di sentire, di vedere. Questo libro è un albero che affonda le sue radici nella terra, nel sangue, nella carne di un villaggio della Grande Madre Sicilia. Questo libro è un'esperienza fra persone. Questo libro è un mostrare ciò che accade fra e delle persone quando sono lasciate a se stesse a gestire la propria esistenza. Questo libro è una testimonianza da una terra primordiale dove la psichiatria non ha messo radici, ma su cui aleggia e sparge il suo alito mortale. Questo libro è un atto di giustizia. Dietro ogni scemo c'è un villaggio di Giuseppe Bucalo. Edizioni Sicilia.l. Thank you.